Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, splendida Eurosettimana, non solo per quelli del calcio ma anche per quelli del basket. Da un po' di tempo non passava a salutarci Jerry De Rosa, voce della pallacanestro televisiva su Sky. Ciao Carlo, buongiorno. Grazie di essere tornato, mi mancavi. Non so se c'è, mi mancano anche gli ascoltatori, se vogliono intervenire. 800 24 00 24, numero verde. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Jerry, un abbraccio. Ciao coach. Ci siamo divertiti sta settimana? Sì. Stai parlando con me? Sì, con te. Assolutamente, che tre vittorie per le tre squadre italiane, ma tre sofferte, non è stato mai deciso. Poi Roma è deciso allo scadere di tempo con un canestro da tre, una roba incredibile. Milano nell'ultimo minuto di gioco con un paio di numeri di Jabber, e poi anche Siena ha dovuto fare qualche fatica, però tante soddisfazioni, tre squadre che hanno dimostrato di aver carattere. Roma ieri sera così. Possession of the game, Shaw Smith with a three ball! Amazing! Shaw Smith with a triple! Questo non era Coach Peterson, ma abbiamo pescato apposta questo racconto. Amazing, grande Charles Smith, il ragno, ma non era sull'orlo del taglio, coach. Ma guarda, esatto, era sull'orlo del taglio, ma poi sono stati graziati dal fatto, ma per esempio, che questo Rayshon Terry che gioca per Bamberg, che non mi piace per niente. L'avevo intuito. Esatto, che lui doveva pressare chi rimetteva la palla, cioè quello che rimette la palla non può essere tranquillo, deve saltare di fronte, sbracciare. Sentiamo male, voce che va che viene, quella del coach. Magari proviamo a ristabilire il collegamento, se si sente meglio. Intanto sentiamo quella di Jerry De Rosa, che sicuramente si sentirà perfettamente. Roma come l'Inter e Charles Smith come Benitez, cosa dici? Ma ci sta il paragone, ci sta, hanno salvato la situazione, si sono messi insomma bene per quanto riguarda l'Eurolega, insomma adesso c'è ancora un piccolo passo da fare, però la vittoria di ieri è molto importante. Ma Smith, nessuno ha mai dubitato che fosse un fuoriclasse, i dubbi c'erano sulla tenuta, insomma sul fatto che ha 35 anni, anche nelle ultime stagioni all'Efes un po' in calo lo si era visto, però è presto, la stagione da due mesi si gioca, è presto per tirare conclusioni anche su uno come Charles Smith, insomma quel canestro però ce l'ha nelle corde. Sì. Sai, era stata la classica partita, no? Dove la squadra che è in difficoltà, che è in crisi come Roma, è la classica partita, sei sopra sempre e c'è questo Robinson che segno, Roberts che non l'ha messa mai, che a un secondo e nove dalla fine ti segna in faccia. Però Roberts è quello che un paio di settimane fa ha segnato un canestro da tre contro il Real Madrid, sì. Ma nettamente da tre, gli era andato da due e sono stati supplementari, ed era una azione simile a quella di ieri, che ha fatto ieri. Quindi insomma, quando ti sta per far vincere Roberts, meglio sospettare. Coach, io voglio leggerti questo messaggio. Adriano da Milano: che emozione al forum, grande partita di Jabber con tripla a 10 secondi dalla sirena, una freddezza incredibile, anche un grande Melli, personalità da vendere. Una domanda: ma cos'è successo al Cesca e quante speranze ha Milano di passare? Speranze io credo tante. Al Cesca è successo che hanno cacciato via l'allenatore. Cesca è fuori di giochi ovviamente, però guarda Valencia che sotto Pesic va lì a sbancare Atene, adesso i giochi non sono fatti, però Milano ha delle buone possibilità, e tu hai fatto bene a citare Melli, perché lui nel secondo quarto è stato determinante, ma anche nel terzo quarto, nel primo quarto mordente, tre ragazzi italiani, quindi e anche Real Madrid con cinque giocatori spagnoli che hanno segnato 57 e loro 82 punti, quindi i ragazzi europei si stanno comportando molto bene, in questo caso i ragazzi italiani. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi. Ciao coach. Senti, ha ragione coach Peterson, anche il Real Madrid che era reduce da tante ferite, ha battuto l'Olympiacos. È stata una bella reazione d'orgoglio, perché sì. La sconfitta della scorsa settimana con 49 punti segnati in Belgio, sinceramente, è stata proprio una brutta figura per tutto il Real Madrid come società, direi, non solo il settore baloncesto, come si dice. Questa è stata una reazione da Real Madrid e da squadra di Ettore Messina. Lì problemi di cartellini, no? No, no, lì non ha fatto espellere nessuno. Chissà se Ettore Messina avrebbe mai fatto una roba no, del genere. Non credo. Se è un estimatore di Mourinho. Sì, sì, si parlano. Insomma, sì. Lui è andato. Mourinho ha spiegato cosa vuol dire prostituzione intellettuale. Sì, sì, Messina è andato a vedere gli allenamenti di Mourinho, adesso si attende la visita contraria. Ma sai, quello è anche. Ieri, per esempio, c'era Cristiano Ronaldo a vedere Real Olympiacos, c'era 3 o 4 giocatori del Real Madrid. Non è insomma una cosa da sottovalutare questa, c'è cioè, grande identità della sì, città di Madrid e della città di Barcellona con il Barcellona, ne abbiamo parlato tante volte, insomma a Madrid il Real Basket e il Barcellona Basket non risentono della concorrenza del calcio come succede a noi, proprio per questa forte identità favorita anche dal fatto che insomma viene richiesto a tutti di fare quantomeno finta di essere una squadra. No, magari no, magari sei andato perché gli piace la pallacanestro, però la prima volta vedo Cristiano Ronaldo a vedere una partita di basket. Ascolta Jerry, invece Milano ammazza allenatori con Dure Vujovic, un santone della panchina, sappiamo bene quello che ha fatto in carriera, ma quello che ha fatto solo pochi mesi fa con il Partizan portandolo alle Final sì, Four. Sì, Vujovic, ce lo ricordiamo anche in Italia, ha fatto fatica e lui è un grande coltivatore di talenti, chiamiamolo così. Lo quindi è stato... non era allenatore giusto? Ma questo non lo so, sinceramente è stato anche molto sfortunato. Tornando al paragone con Benitez, ha avuto tantissimi infortuni, non ha avuto Siskauskas per un mese, non ha Kaun, è rientrato Holden all'ultimo momento, Kriapa è rientrato mercoledì contro Milano, adesso me ne dimentico, Voronzevic non ha giocato all'inizio. È stato anche molto sfortunato, è anche vero che Langdon, Holden, forse anche Siskauskas sono un po' sulla via del declino e lo hanno denunciato, insomma, non credo che ci siano solo colpe di Vujosevic. È anche vero che ha già fallito la grande occasione alla grande squadra, sì. Ha sempre fatto molto bene quando gli è andato tempo, quando ha potuto coltivare prima la generazione di Djordjevic e di Ivaz, sì, e sì. Poi quella dell'anno scorso. Secondo me, se prendi un allenatore come Vujosevic, devi fare una squadra da Vujosevic, perché questo Cesca è un po' come l'Inter che si è trovato in mano Benitez, no? Visto che stiamo andando su questa falsa riga, quindi giocatori che hanno vinto tanto, giocatori un po' spremuti, non solo fisicamente, un po' spremuti dal tempo e dalle vittorie, dalla vita ad alto livello. Allora prende Vujosevic, rifai la squadra e gli permetti di fare quello che sa fare meglio, cioè coltivare i talenti che in Russia tutto sommato possono, sì. Si possono trovare. Anche perché ci stava col fatto che è stata una drastica riduzione del budget per il CSKA. Sicuro. E in questo senso Vujosevic potrebbe essere l'allenatore giusto. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo cominciamo a parlare con gli ascoltatori. I primi sono Massimo da Cremona, Francesco provincia di Verona, 800 24 00 24, numero verde. Poi leggo anche gli sms che sono tanti, 349 238 6666. A dopo. Palla spicchi. Torniamo insieme. Massimo da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo spendere due parole sulla Vanoli. Sì. Squadra che a rispetto di ogni pronostico sta facendo un campionato, penso, ben più che dignitoso. A 6 punti ne poteva avere almeno un paio più, visto che Siena ci ha superato al 38esimo dopo essere sotto di 16 punti. Sì. E poi la cosa positiva di questa squadra, secondo me, è che fa giocare malissimo le altre squadre. E ha saputo vincere partite sia segnando 70 punti sia segnando le 100. Sì, quindi sì, penso sì. Che meglio di così non posso fare. Visto che c'è anche Gianni De Rosa lì. Sì. Buongiorno. Adesso le faccio rispondere. Squadra interessante, squadra che ha l'impronta del suo allenatore. Stiamo scoprendo Maoric. Sì, Maoric ha l'impronta di questo allenatore, grande cultore della difesa, figlioccio di Smago Sagadin che ha portato in alto l'Olimpia Lubiana negli anni 90, sempre con questo sistema molto rigido, molto disciplinato. Però è vero che ha vinto anche delle partite sui 100 punti e quindi insomma qualcosa di suo l'ha messo. Maoric, che insomma ha già avuto qualcosa da dire in carriera, ha vinto un League Cup con Lietuvos, è un allenatore insomma che nel 2003 con l'Olimpia era andato a un minuto da buttare fuori il Barcellona dalle Final Four di Barcellona, sì. Insomma non ha mai diciamo allenato le grandi squadre, però è un allenatore che conosce molto bene. Ti piace Cremona? Sì, perché ha una grande identità. È riuscito fra l'altro a far diventare un po' più disciplinato anche Rowland, che insomma è stato un po' il problema dell'anno scorso, visto che non è propriamente un playmaker, e ha trovato in questi giocatori con grande esperienza europea, magari anche nelle leghe non di primo piano, come Perkovic, come Cekulic, i giocatori giusti per il nostro campionato, attorno poi, a Milic. E poi c'è il grande totem, no? C'è il capobranco, il capotribù, Marco Milic, pescato l'anno scorso mi veniva dalla spazzatura, ma non è così, dal dimenticatoio, sì, sì, dal dimenticatoio da Tigliocaia, praticamente non stava giocando, aveva smesso con la Francia dopo qualche mese ed era fermo nella sua Lubiana. È un giocatore difficile da inserire, però se ce l'hai devi metterlo in una squadra di questo tipo, perché è un giocatore molto atipico, però proprio per questa sua atipicità rende difficile la vita agli avversari. Sicuro. Francesco, provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno, sono Francesco. Sì. Volevo fare un paio di considerazioni. Prego. Volevo dire che intanto volevo fare i complimenti alle tre squadre italiane, delle grandi vittorie molto importanti. E poi volevo chiedervi una cosa. Vi sorprende a voi i Knicks in NBA a pari vittorie con i Miami Heat dei grandi LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh? Grazie, arrivederci. Sì. Saremmo arrivati anche lì, perché è il domandone che rimbalza da tutte le parti. Sorprende altro che, io da appassionato di basket dico, per fortuna insomma, che non è sufficiente mettere insieme le figurine per fare le grandi squadre. Io tifo contro come un disperato. Beh, contro Miami. Quello no, perché secondo me fra 2 o 3 mesi comunque se questi cominciano a trovare il modo di giocare. Lasciami ti fare contro adesso, no? lasciami ti fare. Però è bello vedere ogni tanto anche che insomma non è sufficiente prendere i migliori in ogni singolo ruolo per fare una grande squadra, insomma. Sì, sicuro. Senti, ma ho tanti messaggi su Milano. È proibitivo, così proibitivo sognare le Final Four per Milano e Siena, visto che le greche sono calate molto. Melli esploderà, scrive Nicola da Carpinetti. Grande Armani contro Zesca contro il mitico coach, possiamo competere con Siena quest'anno? Allora, Milano è stata brava nel darsi una dimensione europea, nel non considerare più l'Europa come si diceva l'anno scorso, no? Quindi come qualcosa di aggiuntivo, ma come parte integrante della sua stagione. Brava nel darsi una dimensione europea, brava nello smettere di cercare alibi, secondo me, brava a smetterla di arrendersi alla politica del lamento come ha fatto troppe volte l'anno scorso, e questo sta pagando. Poco ma sicuro, secondo me il grande salto di qualità è proprio nell'approccio, nella mentalità. Ormai Milano va in campo contro qualsiasi squadra pensando che può vincere e non cercando di limitare i danni come faceva fino all'anno scorso. Sicuramente una squadra per l'Europa migliore, più grossa, più fisica, anche se l'assenza di Pechenov si sente. Per le Final Four... Vedi anche lì, Jerry, non sono a ripetere, Pechenov manca. Infatti. Poi serviva un lungo, perché sì, è arrivato sono subito. A prenderlo subito, sì, non hanno aspettato. No, sicuramente la stanno giocando come va giocata, come deve giocare una squadra dalle tradizioni di Milano. Credo che la partita, non tanto quella CSKA, ma quella contro il Panathinaikos di una settimana fa, faccia un po' pensare che la distanza ci sia ancora. Cioè, se incontra una squadra top europea che gioca quasi al suo meglio, insomma, contro il Panathinaikos si è vista che c'è ancora un po' di differenza. È vero che il Milano non era al completo, quindi a marzo, aprile vedremo, anche perché il Panathinaikos non gioca sempre così, come ha dimostrato ieri. Sì. Poi non dimentichiamoci, abbiamo citato prima, che il Partizan non era esattamente la più pronosticata delle Final Four. Quest'anno è strana, perché togliendo il Barcellona, almeno all'inizio, e il Fenerbahce di questa prima parte, non vedo super. Scusami, Olympiacos e Panathinaikos si sono sicuramente indebolite, sono sempre di un livello superiore rispetto alle italiane, però sono meno forti degli altri anni. Quindi spazio per la sorpresa c'è, speriamo che sia una delle nostre. Francesco da Roma, buonasera. Buongiorno. Buon pomeriggio. Approfitto del fatto che abbiate lì Geri De Rosa, telecronista di Sky, per fare una critica a Sky, se possibile. Certo. Diciamo che la Lottomatica è stata trasmessa 4 volte quest'anno da Sky, 2 volte in casa e 2 volte fuori casa, e non c'è stata una volta che ci sia stata una telecronaca diciamo imparziale, sempre, e una volta c'era Geri De Rosa, e se non sbaglio era la prima partita Lottomatica a Brindisi. Sì, anche contro Cantù. Com'è? Anche contro Cantù. E soprattutto c'è un certo compiacimento quando la Lottomatica va sotto o subisce delle azioni molto belle. Vi dico solamente una cosa: non obbligateci a togliere il volume oppure a passare all'audio dei rumori di fondo. Scusate, ma è una ha fatto benissimo. Allora, intanto siamo qua per rispondere, mi pare molto strano, anzi escluderei. Ma mi comunque spiace, sono dato questa sensazione, se gliel'ho data me ne scuso. Io parlo per le 2 telecronache che ho fatto io, ma penso di poter parlare anche per i miei colleghi, e sono assolutamente sicuro che non c'è nessun compiacimento nel vedere la Lottomatica che va male. Anzi, diciamo, se dovessi fare dal punto di vista aziendale, insomma, per gli ascolti, per noi, se Milano e Roma vanno bene, questo lo sanno tutti, è meglio, però a noi non interessa interessa assolutamente. Non capisco quale potrebbe essere il mio vantaggio nel, certo, nel vedere l'automatica che va male, quindi essere compiaciuto di questo fatto. Probabilmente l'ascoltatore avrà notato, forse contro Cantù, che avrò esaltato, almeno credo di averlo fatto, l'ottima partita di Cantù contro, contro Roma. Contro Brindisi, invece, che è stata la miglior partita finora giocata da Roma in stagione, sto andando a memoria, ma insomma mi sembra di aver proprio parlato bene, solo bene della l'automatica, certo, insomma. L'automatica comunque non ha risolto i suoi problemi ieri sera con quel canestro di Charles Smith, e poi insomma è chiaro che i tifosi sentono e ascoltano quello che vogliono. Secondo me è un po' difficile, al di là della prima di campionato che è rimasta là subito bissata all'esordio in Eurolega col Bamberg, due partite che a Roma aveva affrontato con grande personalità, tanto da far dire a tutti quanti, noi compresi, ah però guarda l'automatica che bella faccia che ha. Poi, poi sta giocando fino a ieri sera, vediamo se il vento cambia con quella tripla di Charles Smith, sta giocando una stagione piena delle solite difficoltà, direi, Jerry. Sì, il problema secondo me di Roma e di Matteo Bonicioli in questo momento è che lui ha 10 giocatori potenzialmente molto forti, che però quando li mette in campo non sai mai quello che ti danno. Washington, Smith, lo stesso Crosariol, i due, il bosniaco e il montenegrino, Jedovic e Dasic, Giacchetti e Vitali, sono tutti giocatori che possono giocare per esempio il primo quarto di domenica contro Milano o la partita contro Brindisi o qualcosa in Eurolega, o degli scampoli di partita buoni, e poi improvvisamente giocare all'opposto, e che è stato il problema della lottomatica negli ultimi anni, insomma. E quindi è difficile, perché io vedo Bonicioli che continua a cercare il miglior quintetto, alla ricerca sempre della miglior soluzione, perché proprio si aspetta di vedere, conosce il valore dei suoi giocatori, ma non riesce a vederlo con continuità. Ma sembra che Roma avesse e abbia bisogno di un leader, no? Pensava di averlo trovato appunto con quello che ha segnato il canestro da tre della vittoria di ieri sera, e poi improvvisamente questo è andato in difficoltà, in crisi profonda, e allora è ricomparsa, sono ricomparse tutte queste estenuanti ricerche della chimica giusta. Volevo chiederti un'altra cosa invece su Siena, e su in particolare su Lavrinovic, che sembra Larry Bird in questo mese. Sì, sì. A proposito di leader offensivi, perché Siena abbiamo visto anche a perdere a Varese, era una squadra che non aveva la prima opzione offensiva, una squadra alla disperata ricerca di una bocca da fuoco. Poi se Lavrinovic si mette a giocare in questa maniera, di problemi si risolvono sicuramente, ma Lavrinovic gioca così perché secondo me è migliorata anche tutta la squadra. Sì. McCaleb già adesso è un playmaker diverso rispetto a McCaleb di un mese fa, secondo me, cioè sta imparando la scuola senese molto rapidamente. Mi sembra che sia in crescita esponenziale, che era facilitata dal fatto che Lavrinovic tocca il pallone e si possono segnare due se non tre punti, perché ha una davvero, rispetto ai possessi o ai minuti giocati, ha una percentuale di punti assolutamente pazzesca. E anche nelle partite in cui è un po' meno preciso, come a Cholet l'altro giorno, insomma, poi risulta decisivo. Il tutto un Lavrinovic che sembrava che fino a dicembre almeno non potesse giocare, perché sì, si è operato la schiena a luglio. Sì. Invece, insomma, no, poi sono forse ci dimentichiamo, sono tre anni che questo gioca praticamente sempre rotto, sempre acciaccato, sì, sempre in difficoltà fisica. È il primo anno che è senza dolore alla schiena, insomma, e già era pazzesco come gli altri anni. Quest'anno, sì, sì, insomma, vedi tu. Infatti. Dunque, adesso ci fermiamo per sentire la borsa. Subito dopo torniamo insieme. Avremo anche un ospite speciale, state con noi. 800 24 00 24, e già mi scappa da ridere. A dopo. Palla spicchi. I'm sorry, guy. Go ahead. I said that LeBron is what's going on there, Dennis? What do you got going on back there? Watch this. Ask her. Talk to her. Ask her. Dennis Rodman, ma sei tu? Dennis. What's my name? Teresa? Teresa, what do you did guys... Did you hear that name again? I did, I heard you. What's going on with you and Dennis? What are you guys up to? Nothing. You guys partying? Nothing, no comment. Stiamo aspettando la telefonata di Dennis Rodman anche noi, perché ne ha fatta una meravigliosa. Non è qua, per fortuna, ma è... Neanche Terese qua. Neanche Terese. No, perché dovete sapere che è una meravigliosa telefonata. Lui ha telefonato ad una radio di Miami, in cui ha un noto programma di basket in cui si stava parlando il George Sedano Show. Ha telefonato Dennis Rodman, però come avete sentito era in altre faccende affaccendato, no, ma durante l'intervento telefonico. E niente, poi insomma, Joss Dana non ci aveva più, gli ha detto: senti Dennis, vai avanti a fare quello che stavi facendo, ci sentiamo un'altra volta. Ha chiesto scusa, però poi preparati, sei a rischio che no, ma io stavo aspettando veramente la telefonata. Dennis Rodman, uno dei miei idoli ogni epoca, al di là di questa ospitata telefonica un po' fuori programma. Luigi da Milano. Sì, io non sono affaccendato purtroppo. Mannaggia. No, io chiamavo, ho già chiamato un'altra volta, sì, ma richiamo ancora perché è una cosa a cui tengo molto essendo milanese. Sì. Io continuo a insistere sulla inciviltà del pubblico milanese che frequenta da un po' di anni il forum. Sì. Il trattamento che riservano a Bucchi è ridicolo. Bucchi è arrivato due volte in finale. Quest'anno ha una squadra che vince come nessun altro in Italia, almeno per adesso. Cioè, ha un gioco, io lo trovo anche divertente. L'uomo è intelligente, ma questo probabilmente al pubblico deve essere relativamente poco. E nonostante tutto, a ogni partita, regolarmente, ancora prima che accada qualsiasi cosa, si fischia. Questa squadra va sotto di qualche punto contro mica Paderno Dugnano, contro squadre che insomma di solito le danno anche abbastanza. Luigi, no, ma lei da questo punto di vista ha ragione, cioè per uno che non sa nulla, entra al forum, legge la classifica e dice: ok, non hanno ancora perso una partita, legge la classifica di Eurolega e c'è scritto che Milano andrà avanti e quindi centrerà il suo obiettivo, e poi sente questi fischi, è chiaro che può non capire. È altrettanto evidente che se invece sai un po' di più le cose, sai anche che questo strappo tra una parte del pubblico milanese va a sapere per i motivi, non li ricordo nemmeno più. Certo è che è vero, Milano ha raggiunto due volte la finale, è vero anche che Milano ha fatto due stagioni senza speranza nonostante la finale. Quest'anno ha speranza, quest'anno ha lavorato splendidamente in estate, quest'anno probabilmente sta raccogliendo dei frutti. Detto questo, lo strappo tra una parte del pubblico e l'allenatore esiste, e io non credo nemmeno, cioè, quasi una questione di principio, no? Io credo che l'origine di questo strappo con una parte del pubblico sia dovuta alla qualità del gioco degli anni scorsi. Che non era granché, non era, questo granché, non è un segreto. Ma a parte non sempre, ma anche io sono d'accordo con Luigi, l'ascoltatore di prima, perché comunque Bucchi è sempre stato il primo, negli ultimi due anni, il primo, diciamo, dopo Siena. Ha fatto quello che doveva fare. Sicuramente la squadra non era spettacolare, però era anche l'anno scorso è stato senza l'americano scelto come punto di riferimento per 3 o 4 mesi. Ha dovuto fare salti mortali perché il playmaker titolare si è fatto male. Insomma, ha avuto anche le sue sfortune. Poi la squadra difficilmente ha espresso un gioco spettacolare, però era pronta nei playoff, che è la cosa che si chiede comunque ad un allenatore. E contro Caserta ha giocato bene, contro Montegranaro ha giocato bene nei playoff. Contro Siena non ce n'era, ma non ce n'era per nessuno. Quest'anno, secondo me, sta facendo un lavoro eccezionale al momento Bucchi, perché se ci pensate, questa è una squadra molto difficile da allenare. Gestire i minuti di Finley, Jabber, Hawkins, tutta gente abituata a giocare tanto, e sono più o meno, si dividono lo stesso ruolo, con Mordente di rincorsa, che è un altro giocatore che ha bisogno di giocare tanto per rendere, la gestione di Mancinelli, che sta giocando la stagione migliore della sua carriera al momento, il tutto facendo fronte ai problemi di Petravicius, che sta gestendo nel modo migliore, senza Pecero, come detto, adesso senza Maciulli, seppure le cose continuano, secondo me al momento sta facendo un grandissimo lavoro di gestione di questo gruppo complicato. A me la comune non piace tanto nel basket. Mi piacciono di più squadre che hanno delle gerarchie ben definite. Al momento però a Milano la comune funziona anche in Eurolega. Ad esempio peschi dal cilindro Libby Jabber dell'altra sera, peschi dal cilindro, come è successo diverse volte quest'anno, Maciulis, peschi dal cilindro Hawkins, e questa non è una novità. Però questa dovuta anche alla distribuzione dei minuti, questa è una caratteristica di Milano e sarà una caratteristica di Milano fino alla fine, io credo. Sì, anche perché la scelta dei giocatori è stata, secondo me, abbastanza precisa e con un'idea chiara, cioè nessun leader vero, e tutti i giocatori che hanno dimostrato di trovarsi al meglio se sono in un gruppo. Hawkins l'anno scorso a Siena ha dimostrato, invece due anni fa a Milano o anche a Roma, di non essere decisivo quando è la prima punta e basta, può esserlo in certe partite e in altre no. Jabber la stessa cosa, è una squadra anche nelle sue presunte stelle, fatta da, diciamo, giocatori a cui piace anche essere, diventare gregari, recuperatore di palloni. Hawkins è stato decisivo in una partita pur facendo solo due punti perché ha recuperato tanti palloni, e insomma, questo è il motivo per cui è anche difficile poi scegliere il giocatore da mettere in campo in quel momento. Sì. Mentre il telefono di Dennis Rodman è rimanente occupato, quindi se volete intervenire voi, se non è staccato, stato... secondo me. No, occupato. Occupato. Se volete potete intervenire voi, sempre che non siate in altre faccende più divertenti, affaccendati. 800 24 00 24 è il numero verde. Salta il primo allenatore in Serie A, come sapete, o come... se non lo sapete ve lo diciamo noi. Capobianco, che pure ha costruito la storia recente di Teramo con due anni fa una stagione memorabile, l'anno scorso la salvezza conquistata, quest'anno invece esonerato e immolato quello zero che resta scritto nella classifica dei teramani. Tocca a Ramagli, e ho anche un messaggio molto accorato di Camillo da Pescara: mi dica che fine farà Teramo. Non lo so che fine farà Teramo. No, non lo sappiamo neanche noi, sicuramente le premesse non sono le migliori. Adesso la squadra va rifatta o comunque fortemente potenziata, visto che sono andati via già tre giocatori scelti quest'estate. È arrivato Crawford, che non giocherà domenica perché non è arrivato in tempo per il tesseramento. Un primo tassello, una guardia, insomma, prenderà il posto di Ahern. È già arrivato un altro giocatore che prenderà il posto di Michael. Deve fare la sua prestagione Teramo adesso, sì, ma certo, è una situazione complicata. Cioè, Jerry, ma anche lì, leggendo ad esempio i commenti degli ascoltatori sulla pagina Facebook di Palla Spicchi, molti ascoltatori di Teramo, molti tifosi di Teramo, anche lì la sensazione che emergeva, quella di un rapporto che si era consumato, quello tra almeno una parte della tifoseria teramana e l'allenatore del Miracolo. Questo sinceramente non lo so, non vivendo, diciamo, la quotidianità di Teramo. Io sono stato a fare per Sky Teramo Milano la prima giornata. Teramo ha giocato una gran partita, il pubblico è stato caldissimo, è stato vicinissimo alla squadra. So che poi dopo la sconfitta contro Pesaro, Capobianco ha avuto i suoi problemi con i tifosi. Questo mi sembra quantomeno ingiusto per l'allenatore che ha parlato in Europa. Teramo l'ha portata vicinissima alla semifinale, vicinissima addirittura alla qualificazione in Eurolega solo due anni fa. È stato allenatore dell'anno nel 2009, Capobianco. Sicuramente era un ciclo nuovo. Poeta, Amoroso se ne sono andati, se ne è andato Hoover, sono andati insomma proprio dei giocatori diciamo che erano espressione di Capobianco in campo, quindi un po' di pazienza ci voleva. È stata fatta qualche scommessa, vedi, soprattutto Mike Cole che è fallita, credo che Capobianco abbia pagato soprattutto questo. Mentre Max Allegri in conferenza stampa rilascia una dichiarazione epocale, cioè la Sampdoria senza Cassano non è né meglio né peggio, ha detto questo Max Allegri, roba da bollino rosso sulle agenzie, mentre Del Neri dice la parola scudetto non deve far paura. Noi continuiamo a parlare di basket. Alessandro da Milano. Vedi, perché normalmente i protagonisti del basket dicono cose un po' più interessanti, un po' più significative. No, magari c'è altro da fare, cosa ne sai? No, no, dicevo rispetto alle dichiarazioni di allenatore, sì, di calcio che appena... Le veline, queste veline un po' di stampo, un, sì, po', un po' sovietico. Senti, invece, continuando a chiacchierare, Pesaro sta andando oltre le previsioni. Sì. Pesaro un anno fa era, ti ricordi? Ma guarda, era una situazione di Teramo adesso. Bravo. Pieno del tunnel. Secondo me la pazienza che hanno avuto l'anno scorso, anche se la dirigenza è cambiata, però la pazienza che hanno avuto con Dal Monte l'anno scorso, aspettando che arrivasse il momento buono dopo 8 sconfitte consecutive, sta pagando quest'anno, perché Pesaro ha una forte identità di squadra e nonostante pesanti infortuni che hanno tolto 3/4 del quintetto base, stanno andando molto bene. E anche quando hanno perso hanno giocato bene, sono amati dal pubblico proprio anche per questa forte identità con la città di Pesaro, sì, che hanno questi ragazzi. È un gruppo molto compatto e ognuno dà un po' di più quando manca qualcuno, vedi l'assenza di Collins o così, insomma. Sì, e Hackett, che sembrava un oggetto misterioso l'anno scorso a Treviso, quest'anno a casa sua sta facendo a sprazzi una stagione splendida, comunque dà sempre il suo anche quando non fa partite da 27 come un paio di settimane fa. Sì, sì, è nei primi 10 in assoluto del campionato per la valutazione. Questo, sì, dà l'idea che è un giocatore ormai che fa un po' di tutto. Conta molto il fatto che si senta tranquillo e sereno a Pesaro. Conta molto il fatto, secondo me, che abbia lavorato molto quest'estate in America con suo padre, perdendo 7-8 kg di muscoli. Insomma, l'anno scorso era troppo pesante per il nostro campionato. Invece insomma è più completo, più agile in campo, pur rimanendo insomma sempre con un fisico tosto, che tiene in difesa eccetera. Poi però se sei sereno per giocare a basket insomma aiuta molto, e certo, il basket è molto sereno in questo momento. Ci vediamo per il traffico subito dopo. Proviamo a sentire Alessandro da Milano. 800 24 00 24, siamo qui. Palla spicchi. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Quindi non ha altro da fare, può prestarci attenzione, vero? Assolutamente sì, anzi grazie a voi perché dedicate un po' di spazio a questa iniziativa, grazie. Quale iniziativa? L'iniziativa di Cestisti fino al midollo. È una, sì. è un'associazione creata da Tarcisio Vaghi, che qualcuno sì. forse ricorda come allenatore a Teramo, come vice a Magnano, a Varese. Sicuro. E che cosa si prefigge questa iniziativa? Si prefigge ha lo scopo di trovare possibili e potenziali donatori di midollo osseo e di fare informazione su che cos'è la donazione di midollo osseo in Italia, oggi e nel mondo. La donazione di midollo osseo non è più quella cosa che può fare un po' spavento di un prelievo, comunque di un'operazione, ma è una semplice donazione di sangue. Noi stiamo organizzando la quarta tappa di questa iniziativa e si terrà all'oratorio Mater Amabilis di Milano. E sarà in questo oratorio proprio perché Claudio Monti, che è stato un altro grande allenatore nella zona di Milano, sarebbe stato un cestista fino al midollo. Sì. E quindi stiamo appunto il 12 di dicembre al mattino in via Previati 8 a Milano, organizzeremo questa quarta tappa che nelle tre precedenti edizioni ha avuto la bellezza di più di 700 nuovi tipizzati tramite un tampone salivare. Tra i nostri testimoni annoveriamo gente importante come Danilo Gallinari, Denis Marconato, Bulleri, Pozzecco, Meneghin. Quindi insomma, sì, a cestisti sì. siamo messi bene, mi sembra di capire. Sì, siamo messi bene, qui siete a casa vostra, quindi contate pure su di noi, anche utilizzando la nostra pagina Facebook. Sì, sì, anche noi ne parliamo spesso, io fra l'altro sono donatore di midollo osseo, come Tarcisio sa, che saluto se ci sta ascoltando. Ho accompagnato Pozzecco Meneghin al prelievo all'ospedale di Varese. Eh no, sicuramente, insomma, perché è un'iniziativa, cioè più se ne si conosce, certo. Questo meglio è, perché più siamo e meglio è, insomma. Più siamo, meglio molto stiamo. Difficile trovare la compatibilità, quindi. Insomma. Quindi, caro Alessandro, contate pure su di noi, lo ripeto, da qui al 12 dicembre avremo tempo e modo per ribadire il concetto. Vedi come sono gli ascoltatori, prima quello che chiama a Roma di qua di là, adesso mi mandano un messaggio anonimo, mi spieghi che cazzo hai voluto dire citando a sproposito Allegri, sei il solito. Cosa ho detto? Semplicemente una dichiarazione epocale di Max Allegri, la Sampdoria senza Cassano non è né meglio né peggio, mi sembra una semplicemente una curiosità, una banalità molto curiosa. Flavio Tranquillo, buongiorno. Sei sempre il solito. Sempre il solito. Ciao, mamma Flavio. Mia. Senti Flavio, io volevo parlare con te, non tanto di Dennis Rodman, perché l'abbiamo sentito prima e stiamo ancora aspettando la telefonata, ma è sempre occupato il numero di Rodman. Volevo parlare con te di questo Magic November dei nostri, che continua, fa impressione, lo sottolineava prima un ascoltatore, vedere New York e Miami che hanno lo stesso record. Godiamoselo perché non durerà a lungo, però al momento è così. Sì, non durerà a lungo, i record nell'NBA vanno sempre visti prospetticamente perché ci sono periodi di calendario facile, calendario difficile, di tante trasferte, di poche trasferte, di tanti back-to-back, di pochi back-to-back, e questi sono fattori importantissimi, però comunque le partite bisogna poi sempre vincerle, anche contro le squadre meno quotate, anche con pochi back-to-back e anche in casa, e New York si è trovata sull'orlo del precipizio, per adesso ha fatto due bei passi indietro. Danilo ne ha fatti due bene avanti, certo che c'è davanti ancora tanta strada per arrivare dove vuole arrivare lui e dove vuole arrivare la squadra, però quello che vale per lui vale un po' anche per Toronto, che è tornata a un livello di rispettabilità, mentre New Orleans già era rispettabile, qualcosa di più dall'inizio. Sicuro. Ti giro una domanda invece che ci è arrivata via Facebook da Stefano da Genova, sempre su Miami. 7-8 e siamo appena al 20% della regular season, è vero, ma a cosa è dovuto questo tra le possibili risposte? Primo, non tutti i Trebish Boys sono in forma contemporaneamente, dietro non ci sono sostituti all'altezza. Il calendario è stato più ostico rispetto a quello di altre franchigie. Gli avversari che non hanno troppe aspirazioni si concentrano per giocare al 120% contro Miami, quasi a voler dare loro una lezione. Oppure ancora, una squadra con tre stelle in guardia, alla piccola alla grande, perderà sempre contro una squadra con due stelle, play e pivot. ma l'ultima mi sembra un po' troppo astratta, onestamente. Tutte le altre hanno molto diritto di cittadinanza, qualche fortuna ha diritto di cittadinanza. Il fatto che se vuoi avere tre giocatori di quel livello devi anche averne almeno 4-5 di medio, se non basso livello, perché questo dicono le regole NBA e da quelle non si deroga. E poi soprattutto il fatto che puoi essere il Novate milanese, il Cesca o il Miami Heat o l'Armani Jeans, ma una cosa è quando i tuoi giocatori principali giocano assieme da X settimane, una cosa è quando giocano assieme da X mesi e una cosa è quando giocano assieme da X anni. E questo è un valore assoluto, certo e inconfutabile. È ovvio che come dire, le pressioni degli Heat sono leggermente superiori a quelle del Novate milanese, e quindi questo è l'altro fattore, se non quello principale, perché tutto sommato 7-8 ci può anche stare alla luce di infortuni, calendario e bla bla bla. È che 7-8 è inaccettabile quando tu sei arrivato dicendo questa è la fine del mondo. Cosa ne pensi, Jerry? Ovviamente sono d'accordo con Flavio, ciao Flavio. No, ciao. Sicuro, lo dicevamo prima, insomma, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, è una squadra destinata solamente a crescere. È chiaro che le tre stelle dovranno fare ognuna un piccolo passo indietro e molto dipenderà dalla volontà di farlo, insomma, e quanto presto lo faranno per poter convivere. Però insomma, prima di tranciare giudizi su questi tre giocatori, insomma, LeBron James ha dimostrato di poter vincere quasi da solo, anche quando aveva di fianco nessuno. Avendo di fianco Bosch e Wade, insomma, forse è anche un po' più facile in teoria. Bisogna imparare come farlo. Senti, ma dato che tutto il mondo è paese, Flavio, tutto il mondo è Teramo, tutto il mondo è Mosca, dove saltano gli allenatori, uno che ha costruito la storia recente di Teramo, uno che ha fatto qualcosa anche di più grande, di un po' più grande a Belgrado, anche a Miami, come a Teramo e a Mosca, potrebbe saltare l'allenatore Spoelstra. Sì, potrebbe, lo sapevamo fin dall'inizio e lo diciamo fin dall'inizio. Il problema è più o meno sempre quello, posto che Miami, Teramo e Mosca sono tre situazioni, una molto differente rispetto all'altra, però il problema è che il ruolo dell'allenatore mi sembra un po' troppo esaltato in certi momenti e un po' troppo esagerato nell'attribuire delle colpe in altri. Io penso al canestro di ieri di Charlie Smith, finché quella palettata in aria Bonicioli era disastroso e dopo che è entrato è un grande allenatore. Temo che sia un po' oltre il semplice risultato o i semplici risultati o il semplice fatto che quando tu hai Miami Heat e il CSKA essere 7-8 piuttosto che 1-5 in Eurolega è inaccettabile. Sì, è inaccettabile, sicuramente non è congruente con il valore dei giocatori singoli, che sia necessariamente tutta colpa dell'allenatore o che il record, dico per dire, di San Antonio, per dire un allenatore al di sopra di ogni sospetto, sia solo e solamente merito di Popovic, mi sembra difficile da sostenere. Flavio, ci sentiamo domenica, grazie. Fatto. Grazie, ciao, ciao. Grazie a Flavio, tranquillo, noi siamo quasi in chiusura, insomma. Sì, ma ha ragione, molto sopravvalutato anche il ruolo dell'allenatore. Resta il fatto, caro Jerry, che questa settimana, grazie a quel pallone che volava e che teneva in sospeso Bonicioli, dopo anni in cui ci piangiamo addosso e ci deprimiamo sullo stato del basket italiano, quest'anno va là, in Eurolega stiamo andando bene. Sì, contando anche l'Eurocup, 6 vittorie su 6 delle nostre italiane. E credo che sia un piccolo record. Sì. No, secondo me, lo dicevo prima per Milano, ma in generale, secondo me, sono più consapevoli della loro forza le squadre italiane quest'anno. L'unica che lo è stata negli anni scorsi è stata Siena, e i risultati lo hanno dimostrato. Le altre giocavano le coppe perché si doveva farlo, fondamentalmente. Sì, sì, sì, sì. E ho anche la sensazione che anche dalle altre parti il problema del grano sia reale, quindi sicuro. Un po' più bassi. No, sicuramente il livello è sceso, anche se ci sono, secondo me, ancora 3 o 4 squadre al momento inarrivabili per le nostre. Però, sai, l'Olimpia Lubiana, il Partizan, lo Žalgiris negli anni passati, con budget di un decimo delle nostre, se la giocavano, qualcuno ha sfiorato. Partizan è arrivato alle Final Four. Cioè, si può fare. Il basket, per fortuna, ti permette di farlo. È chiaro che se, come l'anno scorso, pensi solo alla top 16 come obiettivo principale, allora non ce la fai. Grazie, ci vediamo presto. Oh, molto presto, grazie ci a voi. Ci vediamo e ci sentiamo presto. Purtroppo Dennis Rodman, te ne avevo sempre occupato, magari ci riproviamo venerdì prossimo. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia e Franco Piantanida in redazione, oltre a Guido Scotti. Ci sentiamo con lo sport domani dalle 17 alle 18. Vi aspetto.